Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È stato arrestato per turbativa d'asta il sindaco di Lodi del Partito Democratico. L'accusa: pressioni per favorire una società negli appalti per le piscine. Una nuova caduta per le banche in borsa, i titoli perdono oltre il 7%, alcuni titoli oltre il 7%, sul FTSE MIB non c'è neanche un titolo positivo. L'Europa vede una crescita moderata per l'Italia e deficit in calo, si tratta sulla flessibilità di bilancio, dice Moscovici. Senza libera circolazione in Europa, 18 miliardi all'anno di costi, dice la Commissione Europea. Per Padoan, l'addio a Schengen è più pericoloso della crisi dell'euro. Prosegue la protesta di una cinquantina di rifugiati a Reggio Emilia. Il motivo: la pasta è scotta e il riso acquoso. Vanno presi a calci nel sedere, dice un consigliere del PD. A Caivano si indaga sulle violenze verso altri minori, mentre chiude la scuola media del Rione. La preside si dice devastata e delusa. Leicester festeggia la vittoria in campionato della squadra di Ranieri. Lo fa chi ci ha scommesso su e anche la comunità italiana della città. Parleremo con un rappresentante di questa comunità. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp, e poi c'è il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, nel quale vediamo quotidianamente qualche anticipazione dei temi che tratteremo in trasmissione. In apertura dunque parliamo di un'altra vicenda che incrocia cronaca giudiziaria e politica, ossia l'arresto del sindaco di Lodi, Simone Oggetti. L'accusa è turbativa d'asta per gli appalti per la realizzazione di piscine. Abbiamo con noi Lorenzo Rinaldi, che è capo servizio cronaca del quotidiano locale Il Cittadino di Lodi. Lorenzo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo detto appunto turbativa d'asta, e la denuncia è arrivata da una dipendente del comune, no? Sì, la denuncia, la segnalazione è arrivata da una dipendente del comune che in conferenza stampa non è stata identificata. Il tema che ha portato all'arresto riguarda un bando d'appalto per la gestione delle piscine scoperte del comune di Lodi, sono due impianti, bando sul quale erano intervenuti negli scorsi giorni anche numerosi esponenti dell'opposizione e alcuni dei soggetti che erano stati esclusi dal bando. Questa mattina la notizia shock per la città, con i militari del nucleo tributario della finanza che sono arrivati in comune e hanno prelevato il sindaco Oggetti, portandolo prima nei loro uffici e poi, ci risulta, a San Vittore. C'è anche un secondo arrestato, si chiama Cristiano Marini, è un avvocato ed è uno dei consiglieri di Sporting Lodi, che è la società che già gestisce impianti sportivi in città, un impianto coperto sul quale molto si è discusso in passato, e che ha vinto la gara d'appalto per la gestione di due impianti scoperti, oggetto dell'indagine della procura. Ascolta Lorenzo, a quel che ci è sembrato di capire, il tema sarebbe stato appunto il fatto che avrebbe fatto pressione il sindaco proprio sulla dipendente comunale che poi l'ha denunciato, perché ritagliasse, per così dire, la gara d'appalto su misura per questa società. Questo è quanto ha prospettato al momento la procura, però devo dire che in conferenza stampa sono stati molto molto molto attenti a pesare le parole, proprio perché, pur essendo una realtà di 45.000 abitanti, evidentemente la notizia è deflagrante per il territorio. Ecco. Ci sarebbe stato, in conferenza stampa l'ho detto che ci sarebbe stato addirittura anche inquinamento delle prove, o un tentativo di inquinamento. Sì, un tentativo di inquinamento, il che ha fatto probabilmente poi accelerare la decisione del PM e del GIP, insomma. Ecco. Sì, ci sarebbe stato un intervento teso a in qualche modo inquinare, ecco, le prove soprattutto sul fronte informatico, però anche su questo sono stati davvero molto molto molto attenti a pesare le parole. Dal punto di vista politico la notizia ha scosso la città, abbiamo già le prime reazioni delle opposizioni, in particolar modo tra gli altri è intervenuto il deputato della Lega Nord Guido Guidesi, sono intervenuti dai 5 Stelle, tutti molto duri sugli arresti. Ti ringrazio, grazie a Lorenzo Rinaldi, capo servizio cronaca del Cittadino di Lodi, per quello che ci ha raccontato esaustivamente. Aggiornamenti anche ovviamente sul sito del loro quotidiano e sul quotidiano Domani in edicola. L'indagine, hanno fatto sapere tra l'altro i magistrati, prosegue, vedremo come andrà a finire. Intanto, per restare sulla politica lombarda e sempre che si incrocia con la cronaca giudiziaria, l'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, arrestato nell'ottobre 2015 con l'accusa di tangenti nella sanità, è rimesso in libertà realtà il mese scorso è tornato oggi in Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta di oggi. Al suo ingresso in aula i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno urlato vergogna, esposto uno striscione, poi rimosso con la scritta onestà. Alcuni di loro sono stati espulsi. Veniamo ai mercati, perché le borse stanno andando male, e stanno andando male soprattutto i titoli bancari all'indomani della decisione della Borsa Italiana di non dare il via libera alla quotazione della Banca Popolare di Vicenza. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno. Allora, Milano perde 2,5 punti, trascinata al ribasso dai bancari, in particolar modo da alcuni bancari. Il Banco Popolare, che è stato anche sospeso in asta di volatilità quando segnava un calo del 7%, e poi giù pesantemente anche Banca Monte dei Paschi, in questo momento 7 punti abbondanti di ribasso, e poi Unicredit meno 5, Ubibanca meno 4,38. Come dicevi, Simone, il fallimento dell'IPO della Banca Popolare di Vicenza e il timore che ci siano effetti negativi anche sulle operazioni riguardanti Veneto Banca e l'aumento di capitale in vista per il Banco Popolare stanno alimentando le nuove vendite pesanti sul comparto. C'è l'idea che un maggiore impegno del Fondo di Stabilizzazione Bancaria Atlante per gli aumenti di capitale possa togliere fondi invece per la gestione dei crediti deteriorati. Ci sono da segnalare anche altre notizie che oggi appesantiscono un po' tutto il quadro europeo. Ci sono state delle trimestrali deludenti che hanno appunto ulteriormente penalizzato alcuni listini. Commerzbank, per esempio, sta perdendo 7 punti. In Germania gli fa compagnia anche la Lufthansa, che perde 6 punti percentuali. Le altre piazze europee sono in calo di circa 1 punto percentuale abbondante, anzi quasi 2 punti in questo momento. Vedo Parigi e Francoforte. Segnalo anche che ad accentuare la turbolenza sui mercati ci si mette anche l'euro, che sta volando sul dollaro. Stamattina ha risuperato 1,16 per poi ritracciare intorno a 1,15,80. L'oro viaggia intorno ai $1,300 l'oncia. Questo è un po' il clima questa mattina, abbastanza difficile, Simone. Grazie Deborah Rosciani, e torneremo ad aggiornarvi sui mercati alle 13.30. Come sempre, siamo alle previsioni della Commissione Europea sull'Italia. I will not comment today. Non commento oggi lo stato delle discussioni tra Bruxelles e l'Italia sulla flessibilità chiesta da Roma. Il commissario Moscovici risponde con un certo fair play alla domanda della collega italiana, che chiedeva se l'aumento della stima sul debito di casa nostra al 132,7% nell'anno in corso potesse interferire con le richieste del governo. Stiamo lavorando per cercare un terreno comune, ha risposto Moscovici, aggiungendo che i contatti con gli amici italiani sono molto frequenti. Per il resto, stando alle previsioni, in Italia la crescita prosegue, sostenuta dalla domanda. Revisione però al ribasso per il 2016. Calano i disoccupati, ma la Commissione abbassa anche le stime per la crescita dell'occupazione. Nell'eurozona non si respira ottimismo a pieni polmoni, ma non ci sono nemmeno nubi scure ad affollare il cielo. Ritoccate leggermente al ribasso le stime di crescita, che resta positiva ma moderata. Inflation turned negative. Rivista di nuovo al ribasso l'inflazione, più che dimezzata allo 0,2% dal mezzo punto percentuale di febbraio. Dovrebbe risalire in modo più significativo nella seconda metà dell'anno, ha detto Moscovici. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo a parlare di Europa, perché sono atterrati oggi 100 profughi arrivati con un corridoio umanitario in Italia. Però di Europa e di Schengen parlano il commissario europeo Avramopoulos e il ministro Padoan. La crisi del trattato di Schengen è più pericolosa di quella dell'euro di qualche anno fa. A lanciare l'allarme è il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Rimettere in discussione la libera circolazione nei paesi Schengen significa, per Padoan, mettere al centro visioni nazionali dell'Europa che rischiano di prevalere. Il monito del titolare del Tesoro si aggiunge all'avvertimento lanciato dal commissario europeo Avramopoulos, che si è detto deluso da come sta andando il piano di ricollocamento di 160.000 migranti deciso dall'Unione Europea. Avramopoulos non ha escluso azioni legali. La decisione di ricollocare i migranti è vincolante, ricorda. Gli Stati membri hanno l'obbligo morale e legale di farlo. Dal fronte migranti le buone notizie arrivano invece da Fiumicino. È sbarcato stamattina l'aereo con un centinaio di profughi in arrivo da Beirut, grazie al progetto dei corridoi umanitari promosso da comunità di Sant'Egidio, Chiesa Evangelica e Valdese. Saranno ospitati in strutture d'accoglienza di tutta Italia, a spese delle associazioni proponenti, e nel giro di 2 anni il progetto di assistenza dovrebbe coinvolgere 1 migliaio di migranti. Il fondatore di Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Abbiamo palestinesi rifugiati in Siria che hanno dovuto compiere un secondo esodo. Abbiamo persone che vengono dall'Iraq. Io credo che questo è un fatto che onora il nostro paese. Tra le tante storie, anche quella di Talal, 14 anni, siriano, lo incontriamo nel terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino. Sta per partire verso Torino. I am very happy because I come to Italy. Sono contento di essere arrivato in Italia. Qui è tutto felice, non è triste. Il mio sogno è giocare a calcio. Play your football. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo nelle zone dalle quali i profughi provengono. Andiamo tra Iraq e Siria, sono due le notizie principali di oggi. La prima è che gli jihadisti dell'ISIS hanno lanciato una serie di attacchi a est e a nord di Mosul contro i peshmerga curdi dispiegati intorno alla cosiddetta capitale dello Stato islamico in Iraq, la prima offensiva da molte settimane. L'altra notizia arriva dalla Siria: un attacco dei ribelli contro un ospedale di Aleppo avrebbe provocato decine di morti. La situazione continua a essere decisamente confusa. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci, allora Alberto. Ma dunque, innanzitutto c'è una dimensione della tragedia umanitaria tra Siria e Iraq che è notevolissima. Prima nell'intervista lo sottolineava anche il presidente di Sant'Egidio Riccardi. In Iraq ci sono quasi 4 milioni di rifugiati interni dovuti in gran parte proprio al conflitto con il califfato, con l'ISIS. In Siria abbiamo 4 milioni e mezzo di persone all'estero e quasi 5 milioni di persone rimaste all'interno senza la propria abitazione. Quindi significa che in questa area tra Siria e Iraq ci sono tra i 14 e 15 milioni di persone che sono dei rifugiati interni o esterni. Quindi la dimensione umanitaria e demografica di questo conflitto tra Siria e Iraq è evidentemente di dimensioni quasi epocali, no? Di fronte a tutto questo cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Ad Aleppo si sta discutendo per una tregua a Ginevra tra Kerry e gli altri partecipanti al tavolo di Ginevra, ma cosa significherà questa tregua? Quali effetti può avere? In realtà potrebbe avere un effetto positivo, perché al momento ci potrebbero essere dei benefici per la popolazione civile. Ma nel caso di una tregua, che cosa ci si può aspettare? Ci si può aspettare che in realtà sia i ribelli che il fronte opposto, quello di Assad, dei russi e dei pasdarani iraniani, si riforniscano e preparino una battaglia ancora più grande intorno a quella che è la città chiave per il controllo della Siria del Nord. Ti ringrazio. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per questa analisi in diretta il caso dei due Marò. Sarà la Corte Suprema di Nuova Delhi a validare le condizioni che dovranno essere concordate da India e Italia per il rimpatrio di Salvatore Girone. A scriverlo è il Tribunale dell'Aia nella sentenza con la quale ha stabilito che il nostro Marò potrà stare in Italia per tutta la durata dell'arbitrato internazionale, che dovrà decidere a chi spetta la giurisdizione del complesso caso che lo vede protagonista assieme al commilitone Massimiliano Latorre, già rientrato per motivi di salute. I due sono accusati di aver ucciso due pescatori indiani scambiati per pirati nel 2012. I giudici dell'AIA invitano ora India ed Italia a collaborare ed avvertono che verranno prese misure adeguate se non si arriverà ad un accordo entro 3 mesi. Tra le varie condizioni, la sentenza precisa anche che l'Italia avrà l'obbligo di restituire il militare alla giustizia indiana nel caso il tribunale decida che la giurisdizione del caso spetti all'India. Perché Girone torni a casa sarà necessaria ancora qualche settimana, ha spiegato il ministro degli esteri Gentiloni, il quale si è detto sicuro che alla fine l'arbitrato darà ragione al nostro paese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca italiana: ucciso in una rapina l'autista di un portavalori. Ucciso e abbandonato in un bosco per un furgone e una refurtiva di 7.000 euro. È successo in Piemonte, nell'Alessandrino. La vittima è l'autista di un furgone portavalori, Andrea Foglia, 37 anni, dipendente della ditta Ferrari, per conto della quale raccoglieva i soldi delle slot machine di numerosi locali delle province di Vercelli e Alessandria. Il corpo senza vita dell'uomo, ucciso con colpi alla testa, è stato trovato dai carabinieri in un boschetto di Gabiano, piccolo comune dell'Alessandrino. Il presunto omicida, bloccato alcune ore dopo alla guida del furgone rubato, è un uomo di 59 anni, Giuseppe Sorrentino, pregiudicato, residente a Stroppiana in provincia di Vercelli, ma originario di Acerra, nel Napoletano. È stato lui, fermato dopo aver forzato un posto di controllo, ad ammettere di aver rubato il furgone dopo aver colpito e abbandonato il conducente. La refurtiva, quasi 7.500 euro, è stata recuperata. Il presunto omicida è ora rinchiuso nel carcere di Vercelli con l'accusa di omicidio, sequestro di persona e rapina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Della vittoria dell'Leicester di Claudio Ranieri nel campionato inglese, nella Premier League, ormai sapete praticamente tutto e sicuramente torneranno a parlarne Carlo Gente e Pierluigi Pardo a partire dalle 14 in tutti i convocati. Noi più avanti invece sentiremo Roberto Isella, che è il gestore di un ristorante italiano all'Leicester, dove spesso va Ranieri, che è un po' un punto di raccolta per la comunità italiana. Intanto però vogliamo fare i conti in tasca a chi ci ha scommesso su questa vittoria in campionato e a chi se ne è dimenticato. I complimenti gli sono arrivati un po' da tutti: Renzi, Cameron, Del Piero, Allegri, dal suo intero quartiere, il testaccio di Roma, ma non certo dai bookmakers inglesi, che a inizio stagione davano la vittoria della squadra di Claudio Ranieri 5.001 e adesso si trovano a pagare complessivamente qualcosa come 12,7 milioni di euro ai pochi che hanno puntato sul miracolo Leicester. Ora poi si sprecano le storie di quelli che si mordono i gomiti per non averci creduto fino in fondo. L'uomo di Gloucester che ha incassato a Natale, quell'altro che l'ha fatto dopo la prima vittoria. Ma in fondo come dargli torto? Secondo certe agenzie di scommesse era più probabile incontrare il mostro di Loch Ness che vedere il Leicester in cima alla Premier League. Il mostro paga 500-1. L'incontro con Elvis Presley vivo 2000-1. Davanti alle scommesse il positivismo inglese va sempre a gamba all'aria. E l'anno prossimo si farà il bis. La Betfred ha già annunciato che attribuirà la quota 5.001 al neopromosso Burnley. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione andremo come sempre un po' in giro per l'Italia con qualche storia di cronaca, a partire da questa rivolta della pasta scotta di una cinquantina di immigrati in un centro di accoglienza a Reggio Emilia, e poi torneremo a Caivano per parlare della preside della scuola media che sta per chiudere. Caivano, che è il luogo dove, come sapete, si sta concentrando l'attenzione della cronaca in queste ore per l'arresto per un caso di pedofilia e forse la scoperta di una rete. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'arresto per turbativa d'asta del sindaco di Lodi del Partito Democratico, Simone Uggetti. Abbiamo parlato della nuova caduta per le banche in borsa e ci torneremo alle 13.30. Abbiamo parlato delle previsioni della Commissione Europea per l'Italia e abbiamo parlato della vittoria dell'Leicester, soprattutto di chi ci ha scommesso su questa vittoria in Premier League. E adesso ci occupiamo di immigrati in quella che sta passando ormai come la rivolta della pasta scotta. Una cinquantina di immigrati pakistani, forse richiedenti asilo, che in provincia di Reggio Emilia, ospitati in una serie di strutture alberghiere, dicono il cibo che ci viene fatto non va bene, la pasta è scotta, il riso è acquoso. Una cosa che ha fatto arrabbiare, a quanto pare, a quanto ha scritto anche su Facebook, Giacomo Bertani, che è membro della segreteria provinciale del Partito Democratico e assessore del comune di Quattro Castelli. Stella, diamogli un sonoro calcio nel sedere. Non ha scritto proprio così, vero Bertani? No, sono stato un po' più scurrile, diciamo. Ah. Non ho usato la parola sedere. Senta, ma si è pentito di quello che ha scritto, mi sembra di aver capito. Ho sbagliato, non bisogna essere volgari, anche se ho rappresentato un'indignazione diffusa di fronte a una protesta e delle aspettative che ritengo e ritenevo ingiustificate. Senta una cosa, lei ha detto, tra l'altro, dice non dobbiamo diventare il partito del buonismo, insomma, ecco, confermando. Sì, si può essere buoni ospitanti senza essere buonisti. Guardi, io credo fortemente ai valori dell'accoglienza e prendo le distanze da tutti coloro che invece negano l'idea stessa di accoglienza. Però serve rispetto, serve reciprocità. E guardi, la comunità reggiana è un'eccellenza dal punto di vista dei servizi di accoglienza. Queste persone ricevono servizi di alto livello e penso che la questione della pasta un po' scotto, del riso acquoso, sia veramente inaccettabile. Ma non ho capito, perché lei sa che poi le cose arrivano, passano magari da internet, arrivano sui giornali, poi si gonfiano un po'. È andata effettivamente così? Cioè questi 50 sono andati in questura e hanno detto guardate, non mangiamo bene? Sì, è andata così, poi penso che la rimostranza nasca da una frustrazione legata alla condizione stessa dell'essere rifugiato e tutta una serie di cose, però è risultata direi ingrata e anche offensiva nei confronti della comunità reggiana che da sempre ce l'ha nel DNA, accoglie. E... Se ho capito, mi scusi Bettani, protestano anche perché fanno file troppo lunghe in ospedale? Sì, diciamo che nelle interviste del giorno dopo ne sono saltate fuori tutti i colori. Occorre mandare un segnale forte, far capire a queste persone che la comunità è disposta a dare, ma vuole ricevere anche rispetto e reciprocità. E non si guarda cavaldonato, ecco, quindi... E come si manda questo segnale? Cioè scuocendo la pasta per tutti? Scuocendo la pasta per tutti? No, guardi la mensa in cui mangiano è una mensa in cui mangiano anche diversi lavoratori, ferrovieri della zona di Reggio Emilia, non è una mensa solo per loro, e come tutte le mense, io ho sempre mangiato in mensa in vita mia, insomma non è che come il ristorante stellato, ma è più che decoroso, è più che dignitoso il cibo. La ringrazio, grazie Giacomo Bertani, buon lavoro e buona giornata, e saluto Arrigo Giana che è l'amministratore delegato di Cotral, che è l'azienda di trasporti che serve sostanzialmente il Lazio, Giana, no? Sì, buongiorno. L'abbiamo chiamata per questo motivo. Ieri abbiamo visto un titolo sul Messaggero, dice Cotra, l'appalto bloccato e mezzi vecchi, in fiamme, un altro bus con gli studenti. Cosa vuol dire un altro bus? Perché ieri è successo che è andato in fiamme quest'autobus, l'autista ha fatto scendere tutti quanti e così via. Cosa vuol dire un altro? Vuol dire che leggiamo dalla cronaca del Messaggero un copione già visto 37 volte negli ultimi 3 anni, cioè praticamente va in fiamme un autobus al mese. Mi spiega che cosa succede? Ma allora, questo giusto per precisare il numero, i 37 casi di incendio sono relativi agli ultimi 5 anni, però questo comunque okay, è un dettaglio, 5. Diciamo che abbassa un po' la media. Sì. Uno ogni 2 mesi, diciamo più. Di fatto succede come succede, ahimè, statisticamente in tutte le flotte autobus d'Italia, che per questioni tecniche diverse, quindi non è anche attribuibile sempre tutto alla stessa casistica, alla stessa causa, esistono dei principi di combustione che portano agli incendi dei veicoli. In alcuni casi riusciamo a contenere l'incendio, l'autista ovviamente ha dotazione degli estintori, riesce a contenere l'incendio, in altri casi l'incendio non si riesce a contenere, come nel caso dell'altro giorno, ci sono queste immagini in cui effettivamente brucia completamente il mezzo, e quindi il mezzo va completamente distrutto. La casistica, come le dicevo, nell'ultimo studio ufficiale, che è del 2011 dell'ASTRA, che è un'associazione di categoria delle aziende di trasporto pubblico, parla di uno 0,7% di casi sul totale del parco autobus funzionanti. Noi siamo a uno 0,6, 0,5, 0,6, quindi non... le direi che siamo sotto la media, anche se la cosa ovviamente non ci consola. Certo. Il tema è che il nostro è un parco autobus vecchissimo. Sì. Tra l'altro, appunto, voi avete 300 autobus che dovrebbero arrivare, ma come al solito c'è stata una gara d'appalto e poi è successo che la società che ha perso la gara ha fatto ricorso, il TAR ha sospeso, udienza in merito il 14 giugno e poi chissà quando mai. Beh no, chissà quando mai, ci auguriamo che proprio anche diciamo, per la velocità con la quale il TAR ha fissato l'udienza di merito, ci auguriamo che a valle di questa udienza, come dire, le carte si chiariscano e la situazione si chiarisca. E chiaramente noi a valle di questa udienza e quindi del relativo pronunciamento del TAR, sapremo chi è l'aggiudicatario della nostra gara e da quel momento comunque gli autobus verranno ordinati. E li hanno ordinati con i tempi previsti e noi ci aspettiamo comunque di riuscire anche ad anticipare un po' rispetto a quelli previsti contrattualmente a questo punto. Speriamo di non vedere più fiamme sugli autobus della Cotra. La ringrazio Arrigo Giana che ne è l'amministratore delegato. Saluto adesso Eugenia Carfora. Buongiorno Carfora, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, Eugenia Carfora ci parla da Caivano. Caivano è nelle cronache in queste ore, lo sapete, per una vicenda che vi abbiamo raccontato, la vicenda dell'arresto di un uomo accusato dell'omicidio di una bambina di 6 anni e dopo averla violentata l'avrebbe lanciata giù dal palazzo. Adesso si indaga sulla morte di un altro bambino e su altre violenze sessuali. Ma Eugenia Carfora è la dirigente scolastica della scuola media di Caivano. Scuola media di Caivano, che abbiamo appreso oggi scavando nelle cronache dei giornali, si appresta a chiudere per essere divisa, ed è un elemento preoccupante, perché è chiaro che tutto quello che abbiamo visto nasce da uno scenario fortemente degradato, e la scuola in questi casi può essere anche un elemento di aggregazione. Lei si è detta devastata e delusa, mi pare, no? Lo confermo, devastata e delusa, dove tutti adesso si preoccupano di non aver avuto quel tempo materiale per indagare negli occhi dei bambini, e qui invece a Caivano, da che perlomeno io sono qui, non si fa altro che dire che devono diminuire le unità giuridiche e deve aumentare l'indice degli alunni che dovrà gestire una singola scuola. Mi sono battuta per dire, in queste realtà difficili, le scuole devono essere a misura d'uomo, dove anche una classe di pochi bambini deve vivere con tutto ciò che è l'accortezza dell'educazione ai sentimenti. Lei, tra l'altro, se li andava a recuperare i ragazzini, no? Andava a suonare ai citofoni delle famiglie per farli arrivare a scuola. Dottore, io dico una cosa, se il mio ruolo è quello di fare il dirigente e c'è qualcuno che non viene a scuola, e anche uno solo che non viene a scuola, io la burocrazia non è che l'amo tanto, dico che è più veloce andarselo a prendere. È stato un momento, e lo ripeto, un momento bellissimo e straordinario, lo farei e lo voglio fare per tutta la vita, perché questo è il mio compito, salvare i ragazzi. E come reagivano le famiglie quando faceva questa Mai cosa qua? Negativamente, e questo è stato ancora più devastante, perché quando tu quel bambino te lo vai a prendere e la mamma candidamente ti dice prese, non si è svegliato, io ce l'ho detto, vai a scuola, in quel momento l'ho detto a più persone che venivo fortemente presa così, sorpresa, in quanto dicevo di chi adesso mi devo occupare, della sua impotenza come mamma o del bambino che non viene? E allora questa è stata un'altra lettura che io davo al territorio, questa impotenza rispetto a dei modi di vivere e dei riferimenti che non è certo nella scuola che loro pensano di poter, non è con la scuola che pensano di possano, che si potevano salvare. Ecco, quindi questo è un parco da amare nella sua totalità, per evitare che qualcuno se li va a prendere con quella caramella, che quel giocattolo, con quell'attenzione che non è quello che ci vuole qui. Come legge quello che stiamo vedendo in questi giorni? Mi indigna vedere le persone indignate. Mi indigna vedere le persone che adesso dicono che cosa c'è nel Parco Verde. Cosa c'è nel Parco Verde lo sanno tutti, e dico tutti. Nel momento in cui si fa finta di non vedere e bisogna attendere un morto, una disgrazia o quello che noi vediamo in questi giorni scritto su quei giornali, mi indigna sempre di più. Quando le segnalazioni hanno bisogno dei loro tempi, quando ad una bambina bisogna affidare e avere, depositare nella mente di un bambino la gioia di poter dire agli altri non ce la faccio più, questo significa che è la morte dell'adulto. E come se lo spiega questo silenzio? Perché è quello che colpisce di più tutti noi da qua, no? Non si capisce come mai molti sembravano sapere e nessuno ha parlato. Guardi, se uno viene qua e sta tutti i giorni con i ragazzi, li ascolti, li vedi, li osservi, e quando loro parlano e dicono chi è stato a fare questa marachella, e loro ti dicono nessuno parla, quello è un segnale di uno stile di vita, uno stile di vita che i ragazzi hanno ereditato già da piccoli, perché qui si nasce già grandi. Se lei alleva un bambino e fa sempre ascoltare la musica classica, il bambino fa l'apprendimento anche passivo, e forse quella canzone la riconosce senza che tu gliela hai insegnata a furia di ascoltarla. Questi bambini sentono la stessa musica, il disagio, il papà che non lavora, è il papà che non ce la fa, è la mamma che sta dentro, è quello che non ha il lavoro, e la zia mi tiene perché eccetera. Nel sentire questo, nella mente di un bambino, Che cosa succede? La devastazione diventa adulto e quindi ha le sembianze di un bambino, ma la mente di un adulto. Qual è il ruolo della scuola? Il ruolo della scuola qui, a differenza degli altri posti d'Italia, è fondamentale. Il ruolo della scuola qui ci dovrebbe essere, l'ho detto a tutti qua, una scuola in ogni palazzina. Invece di dire la preside non mi piace, ho un modello formativo che non va bene, io dico evviva che ci possano essere nello stesso luogo più modelli formativi. Solo se noi depositiamo il personalismo e dedichiamo veramente allo studio di come realizzare il grande miracolo di un parco verde così com'è, verde, ma verde nei fatti e nella sostanza. La ringrazio. Grazie Eugenia Carfora per essere stata con noi e insomma terremo alta l'attenzione sulla vicenda della scuola che lei al momento dirige. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico, c'è la borsa tra un attimo e poi nella seconda parte della trasmissione affronteremo un tema un po' più leggero. Andremo a sentire come sta vivendo l'Ester queste ore, lo sentiremo da un italiano che vive là da 12 anni, che ha un ristorante e che spesso ospita Claudio Ranieri. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nei nostri titoli, è stato arrestato per turbativa d'asta il sindaco di Lodi del Partito Democratico, Simone Uggeti, l'accusa pressioni per favorire una società negli appalti per le piscine. Si registra una nuova caduta per i titoli bancari in borsa, alcuni titoli perdono oltre il 6%, ci arriviamo tra un attimo. L'Europa vede una crescita moderata per l'Italia e deficit in calo, si tratta sulla flessibilità di bilancio, dice Moscovici. Senza libera circolazione, nel vecchio continente 18 miliardi all'anno di costi, secondo la Commissione europea. Padoan dice l'addio a Schengen più pericoloso della crisi dell'euro. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Effetto giorno. Roberto Isella, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, gestore del Timo Wine Restaurant di Leicester. Poi, facciamo una cosa, ci dica subito come si pronuncia, che qua lo diciamo tutti in un modo diverso. Gira anche un video su come lo pronunciano i romani. Ah sì, no, è Leicester. Leicester, ok, perfetto. Allora era giusto così. Vive lì da 12 anni, è tifosissimo del Leicester. Ci dice come ha passato la notte? Ma guarda, è stata una notte magica. Dopo che abbiamo scoperto il risultato, siamo andati tutti in centro a festeggiare, gente che piangeva, insomma una gioia fantastica per tutti. Sì, tra l'altro nel suo locale il mister ci va Ranieri, no? Ci viene? Sì, una volta o due a settimana ci viene, ultimamente era molto impegnato, non è venuto per una settimana, però sì, anche i giocatori, insomma. Mi sembra di capire che questa vicenda abbia anche avuto un impatto proprio sulla comunità italiana di Leicester, no? Sì, certo, siamo ancora più orgogliosi di essere italiani, eravamo già ben visti, però sai, in una piccola crisi che c'è adesso, diciamo un po' in Italia, così a livello politico o di lavoro, ci ha fatto alzato una bella bandiera, diciamo. Senta una cosa, ma lei ci avrà parlato, no? Qualche volta con Ranieri, certo. Gli avrà chiesto qualche volta, mister è la volta buona o Claudio è la volta buona questa, che cosa le ha detto? Ma è molto scaramantico, il mister non si sbilancia, ecco, lui ha detto che loro giocavano per la salvezza e ha continuato sempre a dire così, noi giochiamo per la salvezza e basta. Cioè, ce la dice una cosa, ma lei ha scommesso o no? No, io purtroppo non ho scommesso. Perché quella sarebbe stata una bella botta, no? Sì, sarebbe stata una bella vittoria. Ci sono stati 4 o 5 che hanno scommesso. Qualcuno ha ritirato la vincita prima perché gli hanno fatto l'offerta, quindi si staranno mangiando le mani anche. Eh sì, perché qualcuno a qualcuno, le società di scommesse, visto come stavano andando le cose, hanno detto sì. Guarda, te la ricompro a un prezzo un po' più alto, però te la ricompro. E sì, poi... sì, mi pare alla metà, ha ritirato la metà quel signore di Leicester. Quel signore di Leicester ha ritirato la metà. E adesso vi aspettate, immagino, un afflusso nel vostro locale mostruoso, o era già così durante l'anno? Beh sì, è aumentato sempre di più, sai, sapendo che i giocatori venivano qua, il nostro ristorante è legato molto allo sport, abbiamo appunto anche dei vari nomi di sportivi sul menù, compreso Claudio Ranieri. Sì, e poi appunto anche Castro Giovanni, no, se non sbaglio, veniva da certo, voi. Certo. Sì, anche Castro Giovanni, più giocatori dell'Ester Tigers, che sono sempre stati molto legati al nostro ristorante. La grande festa quando è poi? La grande festa sarà il 7 maggio, quindi c'è la partita contro l'Everton e alzeranno la Coppa della Premier. Quindi ci sarà una grandissima festa, le luci della città saranno blu come il colore della maglia, quindi sì, fa una fantastica atmosfera. Fantastico, allora magari ci sentiamo l'8 maggio, ammesso insomma che ti svegli in tempo, ovviamente, vista la festa della sera prima. Sì, grazie. Grazie Roberto Isella, gestore del team Wine Restaurant di Leicester, per essere stato con noi. Noi, prima di chiudere, è il momento dell'analisi settimanale, o meglio settimanale, in realtà è bisettimanale, il martedì e il venerdì, del nostro Daniele Biacchessi, e oggi ci occupiamo di riforme e di referendum. La battaglia sul referendum costituzionale che si terrà ad ottobre ormai è iniziata, mentre si entra nel vivo anche della campagna elettorale amministrativa del 5-19 giugno. Il premier Matteo Renzi sostiene da tempo che con il referendum si gioca la sua leadership personale e la guida del paese. Per vincere Renzi sfoderà tutto l'apparato del Partito Democratico, si parla di 10.000 comitati locali, 100.000 volontari impegnati ai gazebo in un lavoro finanziato da basso. Dall'altra parte il comitato per il no è già in azione da diverse settimane, banchetti per la raccolta delle firme sono organizzati da ANPI, ARCE, Movimento 5 Stelle, rifondazioni e associazioni di ogni tipo. Al di là degli schieramenti che si delineano del risultato finale, la vera battaglia che i due comitati dovranno vincere sarà contro il disinteresse popolare e la prevedibile alta astensione, perché i temi costituzionali risultano fondamentali certamente per la vita politica e istituzionale del nostro paese, ma se poi non vengono spiegati con estrema semplicità risultano argomenti ostici e poco appassionanti per un elettorato più ampio, ed è questo il rischio più forte che corre il premier Renzi. Adesso è il momento del traffico di Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.